Incaricò dunque Mr. Isham di Norfolk di far pervenire a Mr. Nicholas Green, alla locanda di Clifford, uno scritto che gli esprimeva l'ammirazione di Orlando per le sue opere. Nick Green a quel tempo era uno scrittore famosissimo e il desiderio di fare la sua conoscenza. Desiderio che osava appena formulare, dato che non aveva nulla da offrire in cambio, ma se Mr. Green avesse acconsentito a visitarlo, un tiro a quattro avrebbe atteso all'angolo di Fetter Lane a qualunque ora Mr. Green avesse voluto indicare e l'avrebbe condotto in tutta sicurezza alla casa di Orlando. Ognuno può facilmente aggiungere il resto e immaginarsi la gioia di Orlando allorché, poco dopo, Mr. Green gli fece sapere che accettava l'invito del nobile Lord. Prese posto in carrozza e ne discese puntualmente nel cortile sud dell'edificio centrale, lunedì 21 aprile alle 7. Molti re, regine e ambasciatori vi erano stati ricevuti e giudici vi avevano sfoggiato gli ermellini. Vi erano convenute le dame più leggiadre del paese e i guerrieri più austeri. Vi pendevano vessilli che erano stati a Flodden e ad Azincourt. Vi facevano bella mostra stemmi dipinti coi loro leoni, leopardi e corone. Vi erano allineate le lunghe mense cosparse di vasellame d'oro e d'argento. E dentro gli ampi camini di marmo italiano scolpito ogni notte un'intera quercia coi suoi milioni di foglie e con tutti i nidi di cornacchie e scriccioli veniva ridotta in cenere. Là stava adesso Nicholas Green, il poeta, vestito modestamente col suo farsetto nero, il cappello floscio e una piccola sacca da viaggio in mano. Che Orlando, quando si precipitò ad accoglierlo, restasse leggermente deluso era inevitabile. Il poeta era appena di media statura, era gracile, striminzito e un po' curvo, e nell'entrare inciampò nel mastino che lo morse. Inoltre, malgrado tutta la sua conoscenza degli uomini, Orlando si trovò molto imbarazzato sul posto da assegnargli. C'era in lui qualcosa che non era né da servo, né da cavaliere, né da nobile. La testa con la fronte rotonda e il naso aquilino era bella, ma il mento era sfuggente. Gli occhi erano luminosi, ma le labbra pendule sbavavano. Era però l'espressione complessiva di quel viso che sconcertava. Non aveva niente di quel contegno armonioso che rende così piacevoli da guardare i visi dei nobili. E non aveva nulla di quella dignitosa servilità delle facce dei domestici bene addestrati. Era un viso segnato, corrugato, solcato. Benché fosse poeta, pareva più abituato a criticare che ad adulare, a disputare che a corteggiare, ad azzuffarsi che a cavalcare, a lottare che a riposare, ad odiare che ad amare. Tutto questo traspariva dalla vivacità dei suoi gesti, da un balenare fiero e sospettoso dello sguardo. Orlando fu un po' raggelato, ma andarono a pranzo. Qui Orlando, che di solito dava per scontate queste cose, per la prima volta si vergognò inesplicabilmente del numero dei suoi servitori e dello splendore della sua mensa. Ancora più stranamente lo inorgogliva il pensiero, di solito sgradevole, della bisnonna Moll che aveva munto le vacche. Fu lì per alludere a quell'umile donna e ai suoi secchi da latte quando il poeta gli tolse la parola di bocca dicendo che era curioso che il nome Green, così comune, appartenesse a una famiglia venuta in Inghilterra con Guglielmo il Conquistatore, alla più alta nobiltà di Francia. Disgraziatamente erano decaduti e avevano fatto poco più che lasciare il loro nome al reale borgo di Greenwich. E simili discorsi su castelli perduti, blasoni, cugini baronetti del nord, matrimoni tra consanguinei di nobili casate d'occidente e sul fatto che certi Green pronunciassero il loro nome con la E finale e altri senza. Si protrassero finché giunse in tavola la cacciagione. A questo punto Orlando riuscì a dire qualcosa della vamolle e delle sue vacche e quando portarono le anitre selvatiche si era alleggerito un po' il cuore. Ma fu solo allorché il malvasia cominciò a scorrere che Orlando osò menzionare un tema che riteneva più importante dei grino delle vacche, cioè il sacro tema della poesia. Appena fu pronunciata quella parola, gli occhi del poeta fiammeggiarono. Lasciò cadere le arie da gentiluomo compito che si era date, picchiò il bicchiere sul tavolo e si lanciò in una storia fra le più lunghe, complicate, appassionate e amare che Orlando avesse mai udito, salvo dalle labbra di una donna tradita. Il soggetto era un dramma del poeta, un altro poeta e un critico. Quanto alla natura della poesia in sé, Orlando apprese solo che era più difficile da vendere della prosa e sebbene le righe fossero più brevi, più lunga da scrivere. La conversazione, con digressioni, continuò interminabile finché Orlando, osò accennare di essere stato anche lui tanto temerario da scrivere. Ma in quel momento il poeta diede un balzo sulla sedia. Un topo aveva squittito fra i pannelli di legno, disse. La verità era, spiegò, che i suoi nervi erano in uno stato tale che lo squittio di un topo li scombinava per 15 giorni. Certo, la casa era piena di animali nocivi, ma Orlando non se n'era accorto. Allora il poeta gli sciorinò tutta la storia della sua salute a partire da una decina d'anni prima. Era stata pessima, tanto che c'era solo da meravigliarsi che lui fosse ancora vivo. Aveva avuto la paralisi, la gotta, la malaria, l'idropisia e le tre febbri, una dopo l'altra. Inoltre aveva il cuore ipertrofico, la milza ingrossata e il fegato malato. Ma soprattutto, disse Orlando, aveva nella spina dorsale sensazioni che sfidavano ogni descrizione. Una vertebra, circa la terza dall'alto, bruciava come il fuoco. Un'altra, la seconda circa dal basso, era fredda come il ghiaccio. Certi giorni si svegliava col cervello più pesante del piombo, certi altri era come se gli accendessero 1.000 ceri dentro il corpo, come se gli sparassero dentro dei fuochi d'artificio. Sentiva un petalo di rosa sotto il materasso, disse, e quasi riconosceva le strade di Londra dalle sensazioni che gli davano i loro ciottoli. Insomma, era un macchinario così delicato e così singolarmente congegnato. A questo punto alzò inavvertitamente la mano che per forma era davvero la più bella del mondo, che non riusciva a spiegarsi come mai avesse venduto solo 500 copie del suo poema. Ma questo naturalmente era dovuto in gran parte alla congiura contro di lui. Tutto ciò che poteva dire, concluse battendo il pugno sul tavolo, era che l'arte della poesia in Inghilterra era morta. Com'era possibile quando c'erano Shakespeare, Marlowe, Ben Jonson, Brown, Donne, che scrivevano o che avevano scritto poco tempo prima? E Orlando, nell'elencare i nomi dei suoi eroi prediletti, non poteva crederci. Green rise sardonico. Shakespeare, lo ammetteva, aveva scritto qualche scena abbastanza buona, ma in gran parte le aveva prese da Marlowe. Marlowe era un ragazzo in gamba, ma cosa si poteva dire di uno morto prima dei 30 anni? Quanto a Brown, il suo forte era la poesia in prosa e la gente si stancava presto di stravaganze del genere. Don era un ciarlatano che rivestiva di parole difficili il suo vuoto mentale. I gonzi ci cascavano, ma nel giro di un anno quello stile sarebbe passato di moda. Quanto a Ben Jonson, beh, Ben Jonson era suo amico e lui dei suoi amici non sparlava mai. No, no, concluse. La grande epoca della letteratura era finita. La grande epoca della letteratura era quella greca. L'epoca elisabettiana era inferiore a quella greca sotto ogni aspetto. In epoche simili gli uomini nutrivano una divina ambizione che lui poteva definire la gloria. Pronunciava gloria, tanto che dapprima Orlando non capì. Oggi i giovani scrittori erano assoldati dai librai e sfornavano qualunque robaccia purché vendesse. In quel senso, Shakespeare era il principale colpevole e Shakespeare stava già pagando il fio. L'epoca attuale, diceva, si distingueva per le sue affettazioni preziose e le sue sperimentazioni incontrollate, cose entrambe che i greci non avrebbero tollerato neanche un momento. Sebbene lo addolorasse ammetterlo, perché amava la letteratura come la vita, non vedeva niente di buono nel presente e non aveva speranza nel futuro. E qui si versò un altro bicchiere di vino. Orlando rimase sconvolto da quelle opinioni, eppure non poté fare a meno di osservare che l'autore di quelle critiche non appariva affatto abbattuto, al contrario, più denigrava il suo tempo, più appariva soddisfatto. Ricordava, disse, una notte alla taverna del Gallo in Fleet Street. C'era Kit Marlowe e qualche altro. Kit era euforico, piuttosto sbronzo, gli succedeva facilmente, e in vena di dire scempiaggini. Lo vedeva ancora levare il bicchiere alla salute della brigata e strillare in falsetto: «Che mi venga un colpo, Bill!» si rivolgeva a Shakespeare. «E se non c'è una grande ondata in arrivo e sulla cresta ci sei tu?» E con ciò intendeva, spiegò Green, che si trovavano sul confine di una grande epoca letteraria inglese, e che Shakespeare sarebbe stato un poeta di qualche importanza. Fortunatamente per lui, Marlowe fu ucciso 2 sere dopo in una rissa di ubriachi e non poté vedere come si avverava la sua predizione. Povero pazzo, disse Green, venirci a raccontare una storia simile. Una grande epoca davvero, quella di Elisabetta, una grande epoca. Ecco perché, mio ottimo signore, continuò accomodandosi sulla sedia e stropicciando il bicchiere con le dita, dobbiamo fare del nostro meglio. Tener caro il passato e onorare quegli scrittori, ce n'è ancora qualcuno, che prendono a modello l'antichità e scrivono non per denaro ma per la gloria. Orlando avrebbe preferito da lui un accento più corretto. La gloria, disse Green, è lo sprone degli spiriti nobili. Se avessi una pensione di 300 sterline l'anno, pagata ogni 3 mesi, vivrei solo per la gloria. La mattina me ne starei a letto a leggere Cicerone. Imiterai il suo stile a tal punto che non potreste distinguerci. Ecco quel che chiamo il bello scrivere, ecco quel che chiamo gloria. Ma per farlo ci vuole una pensione. Orlando aveva ormai abbandonato ogni speranza di discutere delle proprie opere col poeta, ma non gliene importava ora che il discorso volgeva sulla vita, il carattere di Shakespeare, di Ben Jonson e di tutti gli altri che Green aveva conosciuto intimamente e sui quali aveva da raccontare mille aneddoti divertentissimi. Orlando non aveva mai riso tanto in vita sua. Erano questi dunque i suoi dei. Metà erano ubriaconi e tutti quanti dei dissoluti. La maggior parte litigava con la moglie e nessuno era superiore alla menzogna o al più gretto intrigo. Scarabocchiavano i versi sul retro di liste del bucato, appoggiate in gran fretta sulla testa del galoppino dell'editore, sulla porta di strada. Così era andato in stampa Amleto. Così Lear, così Otello. Non c'era da meravigliarsi, diceva Green, che questi drammi facessero acqua. Il resto del tempo i poeti lo passavano a gozzovigliare e a sbevazzare nelle taverne e nelle birrerie, dove si dicevano battute di un'arguzia incredibile e accadevano cose che facevano impallidire le burle più audaci dei cortigiani. Tutto questo Green lo raccontava con tanto spirito che Orlando non stava in sé dalla delizia. Aveva una mimica così efficace da far rivivere i morti e sui libri diceva cose mirabili, purché fossero libri scritti 300 anni prima. Così il tempo passava e Orlando provava per il suo ospite uno strano miscuglio di simpatia e di disprezzo, di ammirazione e di pietà, unito a un sentimento troppo indefinito per avere un nome, ma che si componeva di paura e di fascino. Parlava sempre di sé, ma era tanto di compagnia che si poteva stare in eterno ad ascoltare la storia dei suoi malanni. E poi era così arguto, così irriverente, si prendeva tali libertà coi nomi di Dio e della donna, traboccava di bizzarre abilità e aveva la testa infarcita di strane cognizioni. Sapeva preparare l'insalata in 300 maniere diverse e conosceva tutto lo scibile sulle mescolanze dei vini. Suonava una mezza dozzina di strumenti musicali ed era il primo e forse l'ultimo ad arrostire del formaggio nel grande caminetto italiano. Che poi non distinguesse un geranio da un garofano, una quercia da una betulla, un mastino da un levriero, un montone da una pecora, il grano dall'orzo, la terra arata da quella incolta, che fosse del tutto ignaro dell'alternarsi dei raccolti, che credesse che le arance crescessero sottoterra e le rape sugli alberi, che preferisse una qualsiasi veduta di città a qualunque paesaggio, tutto questo e molto altro stupiva Orlando, che non aveva mai incontrato prima una persona del genere. Persino le cameriere, che lo detestavano, ridacchiavano alle sue battute e i domestici, che non potevano soffrirlo, pendevano dalle sue labbra quando raccontava le sue storielle. Insomma, la casa non era mai stata così viva come ora che c'era lui. E tutto ciò dava non poco da pensare a Orlando, inducendolo a paragonare questo genere di vita a quello antico. Ricordò i discorsi abituali di prima sull'apoplessia del re di Spagna o sull'accoppiamento di una cagna. Ripensò alle ore passate tra le scuderie e lo spogliatoio, ricordò i lord che russavano col naso sul bicchiere di vino e detestavano chiunque li svegliasse. Considerò quanto erano attivi e valenti nel corpo e quanto pigri e timidi nello spirito. Turbato da quei pensieri e incapace di stabilire un giusto equilibrio, concluse che aveva lasciato entrare in casa sua un maligno spirito di inquietudine che non lo avrebbe più lasciato dormire in pace. Nello stesso momento Nick Green giunse a una conclusione esattamente opposta. Una mattina, coricato a letto sui più morbidi guanciali tra le lenzuola più fini e guardando fuori dalla finestra loggia sul prato dove da secoli non spuntava un ranuncolo né un'erbaccia, pensò che se non avesse più sentito i carri rotolare sull'acciottolato di Fleet Street, non avrebbe più scritto una riga. Se questa storia seguita per un pezzo, pensò, mentre sentiva nella stanza vicina al valletto attizzare il fuoco e posare i piatti d'argento sulla tavola, cadrò addormentato e qui fece un enorme sbadiglio. Addormentato morirò. Così andò a trovare Orlando nelle sue stanze e gli spiegò che, a causa del silenzio, non era riuscito a chiudere occhio tutta la notte. In effetti la casa era circondata da 15 miglia di parco e da un muro di 30 metri. Di tutte le cose, disse, quella che più gli distruggeva i nervi era il silenzio. Col permesso di Orlando avrebbe posto fine alla sua visita quel mattino stesso. Al che Orlando provò un certo sollievo, ma anche un'estrema riluttanza a lasciarlo andare. La casa, pensò, sarebbe sembrata morta senza di lui. Al momento degli addii, dato che non aveva mai osato affrontare quell'argomento, ebbe l'audacia di offrire al poeta la sua tragedia in versi sulla morte di Ercole e di chiedergli il suo parere. Il poeta la prese, borbottò qualcosa sulla Glauria e Cicerone, a cui Orlando tagliò corto, promettendo di pagare la pensione ogni trimestre. Dopodiché Green, con grandi proteste d'affetto, saltò in carrozza e partì. Il grande atrio non era mai sembrato così vasto, così splendido e così vuoto come quando la carrozza si allontanò. Orlando sapeva che non avrebbe mai più avuto il coraggio di arrostire del formaggio nel caminetto italiano. Non avrebbe mai avuto abbastanza spirito da scherzare sulla pittura italiana, né l'abilità di mescolare un pancio come si deve. Mille belle trovate e stravaganze ormai perdute. Ma che sollievo essere liberato da quella voce querula, che lusso essere di nuovo solo. Non poteva fare a meno di riflettere Orlando mentre slegava il mastino che per quelle 6 settimane era stato alla catena, perché appena vedeva il poeta lo mordeva. Nick Green scese dalla carrozza quel pomeriggio stesso all'angolo di Fetter Lane e trovò le cose più o meno come le aveva lasciate, cioè in una stanza Mistress Green partoriva, Tom Fletcher beveva gin in un'altra. Dappertutto sul pavimento si ammucchiavano libri. Il pranzo, o qualcosa del genere, era su un ripiano da toeletta dove i bambini avevano fatto dei dolci di fango. Ma era questa, Green lo sentiva, l'atmosfera giusta per scrivere. Qui poteva scrivere e scrisse. Il soggetto gli calzava a pennello, un nobile lord in casa sua, visita a un nobile in campagna. Questo sarebbe stato più o meno il titolo del suo nuovo poema. Prese la penna con cui il suo bambino stava solleticando le orecchie al gatto, la intinse nel portauovo che serviva da calamaio e buttò giù una satira che a tratti era molto spiritosa. Era trattata in modo tale da non lasciare dubbi che il giovane lord messo alla berlina fosse Orlando. I suoi modi di dire e di fare più intimi, i suoi entusiasmi, le sue bizzarrie, fino al colore preciso dei suoi capelli e al suo modo di arrotolare la R alla straniera, tutto era preso dal vero. E se ci fosse stato il minimo dubbio, Green lo dissipava introducendovi, quasi inalterati, alcuni brani di quella morte di Ercole, quella tragedia aristocratica che aveva trovato, come previsto, verbosa e ampollosa, oltre misura. Il libello, che subito raggiunse diverse edizioni e pagò le spese del decimo puerperio di Mistress Green, fu inviato sollecitamente a Orlando, ad opera di quegli amici che di solito si preoccupano di queste cose. Quando lo ebbe letto, cosa che fece con calma glaciale dall'inizio alla fine, Orlando suonò per il valletto, gli porse il documento sulla punta di un paio di molle e gli ordinò di andare a gettarlo nel più profondo della fogna più puzzolente della tenuta. Poi, mentre l'uomo si voltava per andarsene, lo fermò. «Prendi il cavallo più veloce della scuderia», gli disse, «e galoppa ventre a terra fino a Harwich. Là imbarcati su una nave che troverai diretta in Norvegia». Comprami nei canili del re la più bella coppia di levrieri da corsa della muta reale. Portameli qui senza indugio, perché, mormorò in un soffio tornando ai suoi libri, l'ho fatta finita con gli uomini. Il valletto, esperto dei suoi doveri, si inchinò e sparì. Adempì all'incarico con tanta efficienza che in 3 settimane fu di ritorno, portando al guinzaglio la più bella coppia di levrieri del mondo. E la femmina, quella stessa notte, dette alla luce sotto il tavolo da pranzo 8 bei cuccioli. Orlando li fece portare in camera sua, perché, disse, l'ho fatta finita con gli uomini. Tuttavia, pagò la pensione ogni trimestre. Così, all'età di circa 30 anni, quel giovane gentiluomo non solo aveva avuto ogni esperienza che la vita può offrire, ma ne aveva anche visto la vanità. Amore e ambizione, donne e poeti, tutto era ugualmente vano. La letteratura era una farsa. La sera, dopo aver letto la visita a un gentiluomo in campagna di Green, bruciò in un gran falò 57 opere poetiche, salvando soltanto il suo sogno fanciullesco, la quercia, che era brevissimo. Gli restavano 2 sole cose di cui fidarsi pienamente, i cani e la natura, un levriero e un rosaio. Il mondo in tutta la sua varietà, la vita in tutta la sua complessità, si erano ridotti a questo, dei cani e un arbusto, tutto qui. E sentendosi liberato da una montagna di illusioni, e di conseguenza assai nudo, chiamò i suoi cani e si incamminò nel parco. Era stato per tanto tempo recluso a scrivere e a leggere che aveva quasi dimenticato l'amenità della natura, che a giugno può essere grandissima. Quando ebbe raggiunto la cima del colle, da cui nelle belle giornate si poteva vedere mezza Inghilterra e in più una fetta di Galles e di Scozia, si gettò sotto la sua diletta quercia e sentì che, se per tutta la durata della sua vita non avesse mai più parlato con uomo o donna, se i suoi cani non avessero acquistato il dono della parola, se non avesse mai più incontrato né un poeta né una principessa, avrebbe potuto passare abbastanza bene gli anni che gli restavano. Là ritornò, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno. Vedeva i faggi indorarsi e le giovani felci schiudersi. Vedeva la falce, poi il disco della luna. Vedeva, ma probabilmente il lettore sa immaginare la frase seguente, che descrive ogni albero, ogni vegetale, tutto intorno, prima verde e poi dorato. E il sorgere delle lune, il tramontare dei soli, e il succedere della primavera all'inverno e dell'autunno all'estate, e l'avvicendarsi della notte al giorno e del giorno alla notte. La tempesta e poi il sereno, come le cose restino inalterate nello spazio di 2 o 3 secoli, fatta eccezione per un po' di polvere e qualche ragnatela che una vecchia è capace di spazzare in mezz'ora. Conclusione alla quale, a ben rifletterci, si poteva arrivare prima con la semplice constatazione che il tempo passò. La durata esatta potrebbe esserne indicata tra virgolette e non accadde proprio nulla. Sfortunatamente il tempo, benché faccia fiorire e appassire con sorprendente puntualità animali e vegetali, non ha sull'animo umano effetti così semplici. Anzi, è piuttosto l'animo umano a elaborare con analoga stranezza il corpo del tempo. Un'ora, entrata che sia nel bizzarro elemento dell'animo umano, può allungarsi di 50 o 100 volte la sua durata d'orologio. Al contrario, un'ora si può rappresentare esattamente sull'orologio mentale con un secondo. Questa straordinaria discrepanza fra il tempo dell'orologio e il tempo interiore è meno nota di quanto dovrebbe e richiederebbe una più ampia indagine. Ma il biografo, che lo abbiamo già detto, si occupa di un campo molto ristretto, deve limitarsi a una semplice constatazione. Quando un uomo ha raggiunto i 30 anni, come Orlando, il tempo del pensiero diventa smisuratamente lungo e il tempo dell'azione smisuratamente breve. Così Orlando dava gli ordini e amministrava i suoi vasti possedimenti in un lampo. Ma appena si trovava solo sotto la quercia, in cima alla collina, i secondi cominciavano a gonfiarsi e ad espandersi, come se non dovessero cadere mai più. Inoltre erano colmi della più strana varietà di contenuti. Non solo Orlando si trovava a fare i conti con problemi che hanno fatto scervellare i più saggi, come che cos'è l'amore, l'amicizia, la verità, ma appena si metteva a pensarci, tutto il suo passato, che gli sembrava estremamente vario e lungo, si precipitava nel momento fuggente, lo faceva lievitare 12 volte la sua durata naturale, lo tingeva di 1000 colori e lo riempiva di tutte le quisquilie dell'universo. In simili meditazioni, o qualunque altro nome si dia loro, trascorse mesi e anni della sua vita. Non è esagerato dire che uscendo di casa dopo colazione era un uomo di 30 anni e ritornando all'ora di pranzo ne aveva almeno 50. Alcune settimane aumentavano i suoi anni di un secolo, altre di 3 secondi al massimo. D'altronde, stimare la durata della vita umana, non osiamo parlare di quella degli animali, è impresa che oltrepassa i nostri mezzi. Non appena diciamo che dura lungo, ricordiamo che è più breve del cadere di una foglia di rosa al suolo. Tra le due forze che alternativamente, e cosa ancora più sconcertante, dominano nello stesso momento il misero torpore dei nostri cervelli, brevità e diuturnità, Orlando subiva a volte l'influsso della dea dal piede d'elefante, a volte quella della dea dalle ali effimere di mosca. La vita gli sembrava prodigiosamente lunga e tuttavia passava in un lampo. Ma anche quando si allungava al massimo e i minuti si gonfiavano di più, e gli sembrava di errare solitario per deserti di vasta eternità, non c'era tempo per svolgere e decifrare quelle fitte pergamene che 30 anni passati tra uomini e donne gli avevano avvolto così profondamente nel cuore e nel cervello. Molto tempo prima che avesse cessato di pensare all'amore, nel frattempo la quercia aveva messo le foglie e se n'era spogliata una dozzina di volte, l'ambizione l'aveva cacciata dal campo, sostituita a sua volta dall'amicizia e dalla letteratura. E poiché La prima domanda, che cos'è l'amore, non era stata risolta. Tornava ad ogni minimo pretesto, o anche senza, a ricacciare i margini, libri o metafore, o perché si vive, dove aspettavano la buona occasione per gettarsi di nuovo nella mischia. Questo processo era ulteriormente rallentato dal fatto di essere abbondantemente illustrato non solo da immagini come quella della vecchia regina Elisabetta distesa sui damaschi del suo letto, vestita di broccato rosa, con la tabacchiera d'avorio in mano e la spada dall'elsa d'oro al fianco, ma anche di odori. Lei era fortemente profumata e da suoni. I cervi bramivano a Richmond Park quel giorno d'inverno. Così i pensieri dell'amore erano tutti ambrati di neve e d'inverno, di bracieri accesi, di donne russe, di spade d'oro e cervi che bramivano, del vecchio re Giacomo che sbavava e di fuochi d'artificio e di sacchi di tesori nelle stive dei vascelli reali che salpavano. Trovava ogni singola cosa che cercava di estrarre dal suo luogo mentale ingombra di altra materia, come il pezzo di vetro su cui, dopo un anno in fondo al mare, si sono incrostate ossa e libellule, monete e trecce di donne annegate. Un'altra metafora per Giove, esclamava Orlando a quest'ultimo pensiero, che dimostrerà il disordinato e circonvoluto lavorio della sua mente e spiegherà perché la quercia fosse fiorita e appassisse tante volte prima che gli giungesse a una conclusione sull'amore. E a che scopo? Si chiedeva. Perché non dirla semplicemente in poche parole? E allora cercava per una mezz'ora, o erano 2 anni e mezzo, di riflettere sul modo più semplice di definire l'amore in poche parole. Un'immagine come questa è manifestamente falsa, ragionava, perché nessuna libellula, se non in circostanze del tutto eccezionali, potrebbe vivere in fondo al mare. E se la letteratura non è la sposa e la concubina della verità, che cos'è? Alla malora, gridava. Perché dire concubina quando si è già detto sposa? Perché non dire semplicemente quello che si vuole dire? E basta. Allora cercò di dire che l'erba è verde e il cielo è azzurro, e così di propiziarsi l'austero spirito della poesia, che, per quanto da lontano, non poteva fare a meno di riverire ancora. Il cielo è azzurro, diceva, l'erba è verde. Alzando gli occhi, vedeva invece che il cielo è simile a veli che mille madonne hanno lasciato cadere dalla chioma, e che l'erba trema e trascolora come uno stuolo di ninfe in fuga dalla stretta di villosi satiri dentro selve incantate. Parola mia, esclamava, poiché aveva preso la cattiva abitudine di parlare da solo. Non credo che una cosa sia più vera dell'altra. Sono entrambe assolutamente false. E disperava di riuscire a risolvere il problema di ciò che è la poesia e di ciò che è la verità, e cadeva in un profondo abbattimento. E qui approfittiamo di una pausa nel suo soliloquio per riflettere quanto fosse strano vedere Orlando sdraiato e appoggiato sul gomito in una giornata di giugno, e per pensare come mai quel bell'uomo, dotato di ogni attributo, vigore e prestanza fisica e bell'incarnato, un uomo che non avrebbe esitato a guidare una carica o a battersi in duello, fosse così acquiescente all'ipnosi del pensiero e ne subisse a tal punto l'influsso che, su una questione riguardante la poesia o la sua competenza in merito, diventava timido come una ragazzina che si nasconde dietro la porta della casa materna. A nostro parere, il ridicolo gettato da Green sulla sua tragedia l'aveva ferito quanto quello gettato dalla principessa sul suo amore. Ma riprendiamo il filo. Orlando continuava a meditare, continuava a guardare cielo ed erba, sforzandosi di immaginare cosa ne avrebbe detto un vero poeta, uno che avesse pubblicato i suoi versi a Londra. Intanto la memoria, le cui abitudini abbiamo già descritto, gli teneva fermo davanti agli occhi il viso di Nicholas Green, come se quell'uomo sardonico, dalle labbra pendule, infido, come si era dimostrato, fosse la musa in persona, e Orlando dovesse rendergli omaggio. Così, quel mattino d'estate, Orlando gli offriva una varietà di frasi, le une semplici, le altre fiorite, e Nick Green continuava a scuotere il capo, a ghignare, a brontolare qualcosa sulla gloria e Cicerone e sulla morte della poesia ai nostri tempi. Alla fine Orlando, alzatosi in piedi, ora era inverno e faceva molto freddo, pronunciò uno dei più formidabili giuramenti della sua vita, che lo legava a una servitù senza uguali per durezza. Che io sia dannato, disse, se scriverò mai una sola parola o tenterò di scriverne una per piacere a Nigrino o alla musa. Bene o male o indifferentemente, da oggi in poi scriverò per far piacere a me stesso. E qui fece il gesto di stracciare una pila di carte e di gettarle in faccia quel viso ghignante dalle labbra pendule. Al che, come un cane bastardo se la batte, se ci si china fingendo di gettargli un sasso, la memoria fece sparire precipitosamente l'immagine di Nick Green e la sostituì con un bel nulla. Tuttavia, Orlando continuò a pensare. E ne aveva ben donde, strappando i suoi manoscritti, aveva strappato al tempo stesso quella pergamena bene arrotolata e decorata che nella solitudine della sua stanza aveva redatto in suo favore, nominandosi, come un re nomina gli ambasciatori, primo poeta della sua stirpe, primo scrittore del suo tempo, accordando alla sua anima immortalità in peritura e assicurando al suo corpo una tomba perpetuamente cinta di allori e degli intangibili vessilli dell'ammirazione pubblica. Per quanto eloquente fosse quell'apparato, ora lo fece a pezzi e lo gettò nella spazzatura. La fama, disse, è simile a... E non essendoci più un Nick Green a fermarlo, si tuffò in una vera orgia di immagini, fra le quali sceglieremo due o tre delle più tranquille. A una camicia di forza che immobilizza le membra, a una cotta d'argento che opprime il cuore, a uno scudo dipinto che nasconde uno spaventapasseri. Il succo di quelle frasi era che mentre la fama ostacola e costringe l'uomo, l'oscurità lo avvolge come una nebbia. L'oscurità è cupa, vasta e libera. L'oscurità permette allo spirito di fare la sua strada senza ostacoli. Sull'uomo oscuro il buio stende i suoi veli pietosi. Nessuno sa dove vada né da dove venga. Può cercare la verità e dirla. Lui solo è libero. Lui solo è veritiero. Lui solo è in pace. Così, sotto la quercia, affondava in una calma dolce e la durezza delle radici affioranti gli sembrava quasi confortevole. A lungo Orlando rimase immerso nei suoi profondi pensieri sul valore dell'oscurità e sulla gioia di non avere nome, di essere come l'onda che torna nel corpo profondo del mare. Pensava che l'oscurità libera lo spirito dall'assillo dell'invidia e del rancore. E permette alle libere acque della generosità e della magnanimità di scorrere nelle vene e consente di dare e prendere senza ringraziamenti né lodi. Così devono aver vissuto tutti i grandi poeti, immaginava, benché la sua conoscenza del greco non fosse sufficiente per toglierlo dall'incertezza. Ma Shakespeare, pensava, deve avere scritto così. E i costruttori di cattedrali, costruito così, anonimamente, senza bisogno di ringraziamenti o di fama. Ma solo di lavoro durante la giornata e forse di un po' di birra la sera. Che vita stupenda, pensò, stirandosi sotto la quercia. E perché non godersela subito? Il pensiero lo colpì come una freccia. L'ambizione precipitò come un piombo, liberato il cuore dal bruciore dell'amore tradito e della vanità offesa e da tutti i pungoli e le punture con cui l'aveva piagato il letto d'ortiche della vita quando ambiva la fama. Ma ormai impotenti, adesso che era indifferente alla gloria, aprì gli occhi che aveva tenuto aperti tutto quel tempo, ma per non vedere altro che pensieri, e vide nella valle sottostante la sua casa. Era laggiù, nel primo sole di primavera. Sembrava più un borgo che una casa, ma un borgo costruito non a casaccio, a capriccio di questo o quello, bensì a ragion veduta da un singolo architetto con un'unica idea in testa. Cortili e fabbricati, grigi, rossi, violacei, si succedevano con ordine e simmetria. Alcuni dei cortili erano oblunghi, altri quadrati. In uno c'era una fontana, in un altro una statua. Alcuni edifici erano bassi, altri a punta. Qua c'era una cappella, là un campanile. E in mezzo si stendevano prati verdissimi e boschetti di cedri e aiuole vive di fiori, e tutti erano chiusi. Ma l'insieme era così ben disposto che ogni parte sembrava aver spazio per estendersi a suo agio. Dalla cinta di un massiccio bastione, il fumo di innumerevoli camini si inanellava perenne nel cielo. Questo edificio vasto eppure armonioso che potrebbe ospitare 1.000 uomini e forse 2.000 cavalli, pensò Orlando, è opera di artigiani dal nome ignoto, cui hanno vissuto per più secoli di quanti io possa contarne le generazioni oscure della mia oscura famiglia. Nessuno di quei Richard, John, Anne, Elizabeth si è lasciato dietro un ricordo, eppure tutti quanti, lavorando insieme con la spada e con l'ago, coi loro amori e la loro fecondità, hanno lasciato questo. Mai la casa era apparsa più nobile e umana. E perché allora aveva desiderato innalzarsi al di sopra di loro? Sembrava vano ed estremamente arrogante cercare di migliorare quel lavoro creativo anonimo, quella fatica di mani scomparse. Era meglio andarsene sconosciuto e lasciarsi dietro un arco, una serra, un muro dove maturano le pesche, piuttosto che bruciare come una meteora che non lasciava cenere. Dopotutto, disse infiammandosi mentre guardava la grande casa distesa laggiù, nel verde, i cavalieri e le dame sconosciute che avevano vissuto là non avevano mai dimenticato di mettere da parte qualcosa per chi veniva dopo di loro, per il tetto che un giorno si sarebbe crepato, per l'albero che sarebbe caduto. C'era sempre un cantuccio caldo per il vecchio pastore in cucina, sempre cibo per gli affamati, i calici erano sempre tersi, anche se i padroni erano malati, e le loro finestre accese, anche se erano agonizzanti. Benché nobili, erano paghi di scendere nell'ombra, insieme al cacciatore di talpe e al muratore. Nobili oscuri, costruttori dimenticati, così Orlando li apostrofava con un calore che smentiva in pieno quei critici che l'avevano definito freddo, indifferente, indolente. La verità è che spesso una qualità è proprio dall'altra parte del muro lungo il quale la cerchiamo. Così apostrofava la sua casa e la sua razza, nei termini della più commovente eloquenza. Ma quando giunse alla perorazione, e quel che eloquenza è senza la perorazione, si confuse. Gli sarebbe piaciuto finire con una bella fiorettatura, esclamare che avrebbe camminato sulle loro orme e aggiunto un'altra pietra al loro edificio, ma dato che l'edificio copriva già 9 acri di terreno, aggiungervi anche una sola pietra pareva davvero superfluo. E si potevano nominare dei mobili in una perorazione? Si poteva parlare di sedie, tavoli e scendiletti? Qualunque fossero le esigenze della perorazione, le cose di cui la casa aveva bisogno erano quelle. Lasciando per il momento in sospeso il suo discorso, scese risoluto la collina, deciso a dedicarsi d'ora in poi all'arredamento del palazzo. La nuova di presentarglisi immediatamente fece venire le lacrime agli occhi della buona vecchia Mister Grimsic, la governante, che ora era davvero invecchiata. Insieme esplorarono la casa. Al portasciugamani nella camera del re, ed era il buon re Giacomo, milord, diceva lei, facendo capire che era passato un bel pezzo da che un re aveva dormito sotto il loro tetto. Ma quei giorni odiosi del Parlamento erano passati, e in Inghilterra c'era di nuovo una corona. Al portasciugamani mancava una gamba, e non c'erano i reggibrocca nel gabinetto adiacente alla camera del paggio della duchessa. Mister Green, fumando quella sua orrenda pipa, aveva fatto una macchia sul tappeto, che lei e Judy, con tutto il loro strofinare, non erano mai riuscite a far sparire. Per la verità, allorché Orlando venne a calcolare quanto sarebbe costato rifornire di poltrone di legno di rosa e di armadi di cedro, di pacili d'argento e di vasi di porcellana e di tappeti persiani, tutte le 365 stanze della casa, vide che non era una bagatella e le poche migliaia di sterline di rendita che gli restavano sarebbero bastate appena a tappezzare di arazzi qualche galleria, a fornire la sala da pranzo di belle sedie intagliate e a provvedere di specchi d'argento massiccio e di sedie dello stesso metallo, per il quale nutriva una smodata passione, le reali stanze da letto. Si mise all'opera con impegno e può darcene indubbia prova la lettura dei suoi libri mastri. Diamo un'occhiata ad una lista di compere che fece a quell'epoca, coi prezzi annotati in margine, ma quelli li omettiamo. Per 50 paia di coperte di Spagna, con idem tende di taffetà cremisi e bianco, dotate di nappe di raso bianco ricamato, di seta cremisi e bianca. Per 70 sedie di raso giallo e 70 sgabelli assortiti, tutti foderati di tela. Per 67 tavoli di noce. Per 17 dozzine di cassette contenenti ciascuna 5 dozzine di calici di Venezia. Per 102 tappeti, ognuno lungo circa 30 yard. Per 97 cuscini di damasco cremisi guarniti di gallone d'argento e poggiapiedi di ordito fine e sedie assortite. Per 50 candelabri, da 12 candele ognuno. Ed ecco che, effetto inevitabile degli elenchi, cominciamo a sbadigliare. Se ci fermiamo è solo perché il catalogo è noioso, non perché è finito. Ce ne sono altre 99 pagine e la somma totale sborsata ammonta a parecchie migliaia, vale a dire a milioni in moneta corrente. E se i suoi giorni passavano in questo modo, a notte alta avremmo trovato Lord Orlando intento a calcolare quanto gli sarebbe costato livellare 1 milione di tane di talpa pagando agli uomini 10 pence l'ora. E poi quanti mezzi quintali di chiodi a 5 scellini e mezzo la misura ci sarebbero voluti per riparare la palizzata intorno al parco, che misurava 15 miglia di circonferenza, eccetera, eccetera, eccetera. L'elenco, dicevamo, è noioso, perché un armadio assomiglia molto a un altro armadio e una tana di talpa non è molto diversa da un milione di altre tane di talpe. Orlando, tuttavia, ci guadagnò qualche viaggio piacevole e qualche bella avventura. Come quando, ad esempio, mise al lavoro un'intera città di merlettaie cieche vicino a Bruges a ricamare cortine per un letto d'argento a baldacchino, e un'avventura con un certo moro di Venezia, dal quale comprò, ma solo in punta di spada, uno stipo di lacca. Varrebbe forse la pena di essere raccontata da altra mano. E il lavoro non mancava di varietà. Ora, portati da tiri di cavalli fin dal Sussex, arrivavano grandi tronchi da segare in tavole per pavimentare la galleria. Un'altra volta era un cofano che veniva dalla Persia, ben imbottito di lana e segatura, dal quale estraeva o un solo piatto o un anello di topazi. Tuttavia, ben presto nelle gallerie non ci fu più posto per un altro tavolo, e sui tavoli non ci fu più posto per un altro stipo, e nello stipo non ci fu più posto per una sola coppa, e nella coppa per un'altra manciata di potpourri. Non ci fu più posto per niente da nessuna parte, insomma la casa fu arredata. In giardino i bucaneve, i crochi, i giacinti, le magnolie, le rose, i gigli, le asterie, le dahlie di ogni specie, i peri, i meli, i ciliegi e i gelsi, oltre a un'enorme quantità di arbusti esotici da fiore, di piante sempreverdi, crescevano tanto fitti, gli uni sulle radici degli altri, che non c'era più un palmo di terra senza vegetazione, né un tratto di prato senz'ombra. Inoltre vi aveva introdotto uccelli selvatici, dalle piume variopinte, e due orsi della Malesia, la cui scontrosità nascondeva, n'era certo, un cuore fedele. Ora tutto era pronto, e quando a sera si accesero gli innumerevoli doppieri d'argento e il lieve soffio che alitava incessante per le gallerie, mosse appena gli arazzi verdazzurri, così che pareva proprio di veder galoppare i cavalieri e fuggire Dafne, quando l'argento scintillò, le lacche brillarono e scoppiettò il fuoco, e le sedie intagliate curvarono i braccioli e i delfini nuotarono sulle pareti con le sirene sul dorso. Quando tutto questo e molto altro ancora fu compiuto a suo gusto, Orlando passeggiò per la casa coi suoi levrieri e si sentì soddisfatto. Ora sì, pensava, aveva di che riempire la sua perorazione, anzi, forse sarebbe stato bene ricominciare il discorso da capo. Eppure, mentre passava in rivista le gallerie, sentì che mancava ancora qualcosa. Sedie e tavoli, benché riccamente dorati e intagliati, divani poggianti su zampe di leone o su colli di cigno, o anche letti della più soffice piuma, in sé non bastano. Migliorano enormemente se qualcuno vi si siede o vi si corica. Di conseguenza, Orlando inaugurò una serie di splendidi ricevimenti per la grande e piccola nobiltà dei dintorni. Le 365 camere si riempirono di colpo per un mese. Gli invitati si accalcarono per i 52 scaloni, 300 servi si affaccendavano nelle dispense, c'erano festini quasi ogni sera. Così, in pochi anni, Orlando consumò la trama dei suoi velluti e la metà delle sue sostanze. Ma si era guadagnato la stima dei suoi vicini, ricopriva una quantità di cariche nella contea e riceveva ogni anno una dozzina di volumi dedicati in termini adulatori a sua grazia da poeti riconoscenti. Per quanto a quel tempo si guardasse dal praticare gli scrittori e si tenesse alla larga dalle dame di sangue straniero, tuttavia si mostrava estremamente generoso, sia verso le donne che verso i poeti, che lo adoravano ugualmente. Ma quando la festa era al culmine, gli ospiti facevano baldoria, Orlando sentiva l'impulso di appartarsi nelle sue stanze. Là, quando la porta era chiusa e la riservatezza assicurata, estraeva un vecchio manoscritto cucito con un filo di seta rubato alla scatola da lavoro di sua madre, che recava la scritta in bella calligrafia rotonda da scolaro, La Quercia, poema. Vi scriveva fino allo scoccare della mezzanotte e oltre, ma poiché cancellava tanti versi quanti ne scriveva, e alla fine dell'anno il loro numero spesso era quasi minore che all'inizio, e sembrava che a forza di scriverlo quel poema avrebbe finito per non essere scritto affatto, lo storico della letteratura dovrebbe notare che il suo stile era sorprendentemente cambiato. Anche il paesaggio esterno era meno inghirlandato, e anche i biancospini erano meno spinosi ed intricati. La sensibilità si era forse un po' ottusa, e il miele e la crema allettavano meno i palati, che d'altronde una maggiore pulizia delle strade, una migliore illuminazione delle case, avessero effetto sullo stile, è indubbio. Un giorno Orlando stava aggiungendo con estenuante fatica un verso o due al suo poema La Quercia, quando un'ombra gli attraversò la coda dell'occhio. vide ben presto che non era un'ombra, bensì la figura di una dama molto alta, che avvolta in un mantello e cappuccio, attraversava lo spiazzo quadrato sotto le sue finestre. Poiché il cortile era il più riservato del castello e la dama gli era sconosciuta, Orlando si chiese stupito come mai fosse lì. 3 giorni dopo la stessa apparizione si ripeté e riapparve il mercoledì a mezzogiorno. Questa volta Orlando si decise a seguirla. Lei non parve impaurita di essere stata scoperta perché rallentò il passo all'avvicinarsi di Orlando e lo guardò dritto in viso. Qualunque altra donna, colta così di sorpresa negli appartamenti privati di un lord, avrebbe avuto paura. Qualunque altra donna con quel viso, quell'acconciatura, quell'aspetto, si sarebbe coperta la testa con la mantiglia per nasconderli, perché quella dama somigliava in tutto e per tutto a una lepre. Una lepre spaventata ma ostinata, una lepre la cui timidezza è sopraffatta da un'immensa e folle audacia. Una lepre che eretta osserva il suo inseguitore con grandi occhi sporgenti, con le orecchie alzate e frementi, il naso dritto e contratto. Ed era una lepre alta 1,80 m, che per di più portava un'acconciatura antiquata che la faceva sembrare ancor più alta. Faccia a faccia, fissava su Orlando uno sguardo in cui la timidezza e l'audacia si fondevano stranamente. Per prima cosa, con un inchino corretto ma un po' goffo, lo pregò di perdonarle l'intrusione. Poi, raddrizzandosi in tutta la sua statura, che doveva essere più di 1,80 m, proseguì dicendo, ma con un tal riso chiocco e nervoso e tanti balbettanti hihi, da fargli pensare che fosse fuggita dal manicomio, che era l'arciduchessa Harriet Griselda di Finsterhaven e Scand op Boon in terra rumena. Desiderava, sopra ogni cosa, disse, fare la sua conoscenza. Aveva preso alloggio sopra la bottega di un fornaio a Park Gates. Aveva visto il ritratto di lui, che era identico ad una sua sorella, e qui scoppiò a ridere, morta da molti anni. Stava rendendo visita alla corte inglese. La regina era sua cugina. Il re era un buon uomo, ma era raro che andasse a letto sobrio, e qui ridacchiò e balbettò di nuovo. Insomma, a lui non rimase che pregarla di entrare e offrirle un bicchiere di vino. Una volta dentro, le sue maniere riassunsero la naturale dignità che si conviene a un'arciduchessa rumena, e la conversazione avrebbe mancato di spontaneità se lei non avesse mostrato una conoscenza di vini rara in una donna e fatto alcune osservazioni abbastanza sensate sulle armi da fuoco e sulle usanze dei cacciatori al suo paese. Infine, alzandosi di scatto, annunciò che sarebbe tornata il giorno dopo, sciorinò un altro prodigioso inchino e se ne andò. L'indomani, Orlando uscì a cavallo. Il giorno dopo fece finta di nulla, il terzo giorno tirò le tende. Il quarto pioveva e, dato che non poteva tenere una dama sotto l'acqua e non era contrario a un po' di compagnia, la invitò a entrare e le chiese se a suo parere un'armatura che era appartenuta ad un suo antenato fosse di Giacobbi o di Top. Lui propendeva per Top. Lei sostenne un'altra opinione, poco importa quale. E invece di una certa importanza per il seguito della nostra storia, che nell'illustrare la sua argomentazione sulla funzione dei pezzi mobili, l'arciduchessa Harriet prendesse una gambiera dorata e l'adattasse alla gamba di Orlando. Che egli avesse il più elegante paio di gambe su cui si sia eretto corpo di gentiluomo l'abbiamo già detto. Forse il modo di allacciargli la cavigliera o la posizione chinata o il lungo isolamento di Orlando o la naturale attrazione tra i due sessi o il Borgogna o il fuoco, la colpa si può attribuire a ciascuna di queste cause, perché certo colpa ci deve essere, da una parte o dall'altra, se un gentiluomo dell'educazione di Orlando, ricevendo in casa sua una dama che è molto più anziana di lui, con un viso lungo una spanna e gli occhi fissi, e vestita poi in modo piuttosto buffo, in giacca e mantello da caccia, malgrado la stagione calda, colpa ci deve essere se un tale gentiluomo viene così improvvisamente e violentemente sopraffatto da certe passioni, tanto da dover lasciare la stanza. Ma che specie di passione poteva essere, ci si può chiedere? E la risposta ha un volto doppio come l'amore stesso, perché l'amore, ma lasciando per il momento l'amore fuori causa, ecco che cos'era davvero successo. Quando l'arciduchessa Harriet Griselda si chinò per allacciare la cavigliera, Orlando udì in lontananza, improvviso e inesplicabile, il battito d'ali dell'amore. Il moto lontano di quelle morbide piume risvegliò in lui 1000 ricordi di acque impetuose, di tenerezze nella neve e di perfidia nel disgelo. Il rumore si avvicinò ed egli arrossì e tremò. E si turbò come aveva creduto che mai più si sarebbe turbato, ed era pronto ad alzare le mani e a permettere all'uccello della bellezza di posarglisi sulla spalla, quando, orrore, cominciò ad echeggiare un rumore scricchiolante come quello di corvi che si precipitino su un albero. L'aria sembrò abbuiarsi di ruvide ali nere, gracchiarono voci, piovero pagliuzze, rametti, piume. E sulle spalle di Orlando si abbatté il più greve e sozzo degli uccelli, l'avvoltoio. Allora si precipitò fuori dalla stanza e ordinò al valletto di accompagnare l'arciduchessa Harriet alla sua carrozza. Perché l'amore, a cui ora possiamo tornare, ha due volti, uno bianco e l'altro nero, due corpi, uno liscio e l'altro villoso, ha due mani, due piedi, due unghie, ogni membro, insomma, doppio, e l'uno è l'esatto opposto dell'altro. Eppure sono così strettamente connessi che non è possibile separarli. In questo caso l'amore di Orlando cominciò a volargli incontro, rivolgendogli il viso bianco e il corpo candido e leggiadro. Si avvicinava sempre più, muovendo davanti a sé aure di pura delizia. D'improvviso, alla vista dell'arciduchessa probabilmente, ruotò e mostrò l'altra faccia. Si rivelò nero, villoso, bestiale, e non fu l'amore l'uccello del paradiso, ma l'avvoltoio lussuria che gli si accasciò impuro e disgustoso sulle spalle. Perciò fuggì e fece venire il valletto. Ma un'arpia non si scaccia tanto facilmente. Non solo l'arciduchessa continuò ad abitare dal fornaio, ma Orlando fu ossessionato notte e giorni dai fantasmi più immondi. Invano, sembra, aveva provvisto la sua casa di argenti e tappezzato le pareti di arazzi, se un uccellaccio schifoso poteva posarglisi ogni momento sullo scrittoio. Eccolo là, che svolazzava tra le sedie e saltellava sgraziato per le gallerie. Ora si appollaiava pesantemente su un parafuoco. Orlando lo scacciava e lui tornava, picchiava col becco sul vetro della finestra fino a romperlo. Allora, comprendendo che la casa gli era ormai inabitabile e che bisognava risolvere immediatamente la questione, fece quello che qualunque altro giovane al suo posto avrebbe fatto, cioè pregò Re Carlo di inviarlo come ambasciatore straordinario a Costantinopoli. Il re passeggiava a Whitehall con Nell Gwynn al braccio che lo bombardava di noccioline. Gran peccato, sospirò l'amorosa dama, che un simile paio di gambe dovesse lasciare il paese. Ciononostante, i fatti erano inflessibili e non le restò che voltarsi a gettargli un bacio prima che salpasse.